delle pene abbastanza, diciamo, importanti. Sono due processi che stanno arrivando a conclusione proprio in queste settimane, forse in questione di qua di un mese o meno, ci saranno le sentenze di primo grado di entrambi i processi, e quindi ci sembrava il caso di rimarcare la nostra solidarietà nei confronti di queste persone. Poi anche un corteo dal titolo Fermarli è possibile, nel senso che è un corteo anche in solidarietà di tutti quelli che lottano, quindi anche poi di rimettere al centro l'importanza delle lotte per cui poi, a causa delle quali poi, insomma, le persone vengono repressi, e quindi Fermarli è possibile ci si riferisce a tutte le lotte, da quella contro gli sfratti a quella contro la TAP in Val di Susa, lotte in cui si è dimostrato che se si è combattivi e ci si organizza è possibile, diciamo, vincere, è possibile fermare i progetti del potere, quindi c'è molto bisogno di lotte così che diano un segno appunto che è possibile ribaltare spesso delle situazioni che spesso non sembra possibile portare la vittoria dalla parte degli sfruttati, invece lo dimostrano poi i fatti che si può riuscire. Quindi volevo dire che si scende in piazza per difendere delle persone, però anche delle pratiche, cioè le pratiche che queste persone hanno portato in piazza, hanno compiuto, quindi la nostra è una solidarietà a 360 gradi sia verso gli imputati ma anche verso le pratiche che questi hanno messo in pratica, diciamo. Ecco, si tratta, volevo anche un po' ribadire che questi processi che si stanno tenendo sono dei processi che possiamo definire politici, cioè c'è un attacco molto forte alle componenti, diciamo, sociali che lottano. Ultimamente sono stati messi in campo proprio dalle forze repressive dei reati pesanti, quali devastazione e saccheggio, che ovviamente è un reato che può permettere alla magistratura di dare molti anni di prigione a una persona che magari si trovava in piazza in un giorno in cui sono accaduti scontri, anche senza poi dimostrare effettivamente una reale partecipazione a fatti, diciamo, contestati, ma solamente la presenza in piazza. E anche il reato di terrorismo, che comunque si riaffaccia proprio a criminalizzare anche movimenti di lotta come quello del movimento TAV, dove comunque sono apparse queste accuse di terrorismo estremamente strumentali proprio per spezzare i movimenti, per dividerli e per, diciamo, per far retrocedere lotte che hanno dimostrato tutta la loro efficacia. Ecco, questi sono, diciamo, i punti salienti di questo corteo. Però vorremmo anche entrare quando entreremo nei quartieri popolari, perché il corteo poi si dirigerà dal centro verso i quartieri popolari. Vogliamo portare un messaggio a tutti, cioè non cercare di unire chi è colpito nelle lotte a chi tutti i giorni poi vive nella strada la propria esistenza. Quindi penso che sia il caso di ricordare che la repressione poi ha toccato un po' tutti in questi anni, ad esempio in primo luogo gli immigrati, che sono stati proprio attraverso una serie di leggi e attraverso l'istituzione dei CPT, moltissimi immigrati sono costretti a un'identità assolutamente precaria, quindi sono costretti ad accettare qualsiasi condizione di sfruttamento per poter sopravvivere. Questa ovviamente è una forma di repressione mirata poi a costruire, diciamo, delle identità fragili per poterle sfruttare meglio, anche per gli studenti che hanno subito negli ultimi anni, hanno spesso, insomma, visto cariche, attacchi da parte della polizia per le loro rivendicazioni, chi lotta in difesa dei territori che ha subito pesanti attacchi, come appunto è successo per il movimento della Valle di Susa, persino gli operai che erano una categoria che, diciamo, negli ultimi decenni era proprio considerato un tabù che venissero toccati dalla polizia, negli ultimi anni hanno, diciamo, visto spesso degli attacchi proprio violenti, ai picchetti, quindi insomma c'è una repressione che colpisce a 360 gradi, ecco, quindi ci rivolgiamo un po' a tutte queste persone. Ecco, questo è che vogliamo dire, cioè, scusa un attimo che prendo un attimo fiato, ecco, un po' la tendenza che, se vogliamo allargarci un po', appunto mi sento che sto andando sì, avanti. Sì, vai tranquillo, non ti preoccupare. Scusa, ascoltiamo. No, perché stavo parlando da un bel pezzo. No, volevo dire che se vogliamo fare un discorso un po' più analitico, molto brevemente, diciamo che la tendenza che si manifesta poi negli ultimi anni, soprattutto con, diciamo, l'attivazione sempre più decisa delle politiche neoliberali anche in Italia ma in tutta Europa, è quella di trasformare tutte le questioni sociali in questioni di ordine pubblico, quindi non si interviene più in maniera sociale, quindi come si è sempre fatto con il classico sistema socialdemocratico, ma sempre di più la risposta a tutte le esigenze che nascono dalla società è quella di utilizzare la polizia. Ecco, questa è un po' una tendenza che noi vediamo, vediamo, e soprattutto quello che vorremmo anche ribadire è che con quella cosiddetta crisi, cioè con la ristrutturazione capitalista che è in atto, bisogna capire che quello che sta succedendo, cioè le tendenze in atto, tenderanno a sedimentarsi in maniera stabile, quindi i livelli di sfruttamento che verranno imposti, quindi anche di repressione che verranno imposti in questi anni, poi non è che spariranno quando così magicamente sparirà questa crisi, ma si stabilirà un nuovo rapporto, diciamo, nuovi rapporti sociali, nuovi rapporti di sfruttamento che tenderanno a proprio sedimentarsi in maniera stabile. Per questo è importante, estremamente importante, contrastarli al nascere con tutta la decisione di cui siamo capaci, perché purtroppo una cosa che riusciamo, che vediamo, insomma, quello che accade nella società è che questo sistema si trova in difficoltà a gestire proprio delle masse eccedenti, cioè quantità di persone verso le cui esigenze non è più in grado di dare alcuna risposta, e che purtroppo tendono a essere sempre più controllate a livello militare, quindi ci sono i CIE, quindi ci sono grossi controlli dei flussi migratori, quindi c'è una vita sempre più precaria, quindi ci sono sfratti di massa a cui non si dà più nessuna risposta, insomma tutte problematiche che stanno emergendo e che vediamo strettamente unite. Ecco, io se posso andare avanti un attimo sulla questione repressiva, vorrei aggiungere che è in atto proprio una tendenza, un aumento della repressione in tutta Europa, diciamo, soprattutto forse i casi più eclatanti sono quelli di Italia, Spagna e Grecia, dove questa tendenza è molto forte, si va sia dall'introduzione di leggi terroristiche che comunque antiterrorismo, che in maniera subdola sono state introdotte anche in silenzio in questi anni, che poi però si vede che poi sono mirate proprio a colpire le lotte sociali, anche se spesso non ce ne siamo poi accorti, però abbiamo visto con l'esempio della Val di Susa cosa è successo. Abbiamo visto la reintroduzione delle carceri speciali sia in Spagna che in Italia che in Grecia, insomma fenomeni che sembrano marginali ma che si stanno, diciamo, sempre più manifestando, e poi anche una lotta, proprio una vera e propria guerra contro le classi povere, che spesso si nasconde dietro il nome di lotta al degrado. Ecco, in realtà spesso tematiche del genere che sembrano apparentemente favorevoli, diciamo, che favorire la vivibilità dei quartieri, spesso poi nascondono in realtà proprio una logica di attacco alle classi più povere, più emarginate. Sono tutti fenomeni in atto, diciamo, in maniera diversificata in tutta Europa. Vorrei aggiungere così al volo, anche rispetto agli ultimi fatti di Parigi e quanto è caduto, la marcia che si è vista a Parigi qualche giorno fa, su Charlie Hebdo, al di là proprio di un giudizio in merito ai fatti che l'hanno generata, che non è il caso di ribadire, qui se ne è parlato molto, però proprio questo tentativo di creare un fronte di unità nazionale tra tutte le forze politiche era qualcosa, diciamo, di inquietante, perché ovviamente questo fronte predispone poi a tutto quello che ne consegue, quindi attacchi militari, predispone a una guerra, diciamo, in favore degli interessi occidentali, ma predispone anche a una stretta repressiva e di controllo proprio della libertà sul fronte interno. Quindi si è parlato di libertà di espressione dell'Europa, però poi vediamo come le prime leggi poi tendono poi in realtà a minare la libertà di comunicazione sui social network, e probabilmente poi chissà, addirittura per quanto riguarda la Francia si parlava di una specie di Patriot Act, e quindi vuol dire di creare comunque forme di stato di emergenza, di leggi speciali che poi ovviamente vengono utilizzate per garantire gli interessi di chi gestisce, insomma, il dominio, quindi vanno a detrimento degli interessi di tutti gli sfruttati. Ecco, queste cose, mi sono un po' dilungato un po' sull'aspetto teorico, però poi volevo un po' inquadrare la questione. Ecco, ma guarda, vado a concludere, okay. Scusa, mi sono preso un po' di tempo. Va bene, non ti preoccupare, andava bene. Che il corteo di oggi vuole dare un messaggio positivo, cioè non è un corteo triste, anzi sarà un corteo allegro, gomoroso, che scenderà nei quartieri, proprio perché lo slogan poi su cui ci siamo uniti è quello di fermarli è possibile, quindi vogliamo dare anche una nostra visione positiva di lotta, di possibilità proprio rispetto al conflitto, di giocare un ruolo da parte di protagonisti, insomma da parte di chi lotta. Quindi questo poi è il messaggio che diamo, e vogliamo anche dire che le lotte poi che in qualche maniera convergono in questo corteo sono lotte che hanno dimostrato questa possibilità, cioè la Valle di Susa ad esempio è una lotta che ha dimostrato la possibilità da parte di una popolazione determinata, coesa e che scende in campo, di fermare una grande opera, un grande progetto del dominio. La lotta agli sfratti, anche molti di noi sono proprio interessi, ma proprio a questa lotta ha dimostrato comunque che anche lì si può in qualche maniera fare retrocedere gli interessi di chi governa. Pensiamo solamente, non so se ne sia parlato abbondantemente, di quanto accaduto a Milano, dove erano in previsione centinaia, un'operazione con centinaia di sgombri, però poi la mobilitazione che ha coinvolto sia, diciamo, gli abitanti e residenti dei quartieri, sia i compagni di vari centri sociali, di spazi occupati, ha fatto sì che questo progetto, almeno per il momento, insomma, chi ci aveva in mente di fare tanti sgombri ha dovuto un po' prendersi le pieve nel sacco, insomma, e tornarsene a casa. Quindi è dimostrabile insomma attraverso la lotta è possibile ottenere qualcosa, ecco, questo noi è quello che vogliamo dire, ecco. Vorrei ricordare anche la lotta dei facchini, perché forse è una delle poche per il momento lotte proprio per quanto riguarda, diciamo, i lavoratori, gli sfruttati, che in qualche maniera sta ottenendo dei risultati proprio tramite una mobilitazione, un'azione diretta che coinvolge proprio i diretti interessati. Sono tutti esempi che noi vogliamo unire per dimostrare, insomma, che c'è questa possibilità di cambiare le cose. Vogliamo andare nei quartieri in cui viviamo, in cui molti compagni di noi, diciamo, molte persone portano avanti la loro attività di lotta, portano avanti la loro esistenza, per lanciare questo messaggio, per dimostrare una forza che esiste, e soprattutto per dire che dobbiamo ribaltare questo concetto di guerra tra poveri che viene strumentalmente portato proprio nei quartieri da parte di chi comanda, ma da parte anche dei gruppi di fascisti che ovviamente stanno al soldo, comunque sono legati a questi progetti. Viene portata, dicevo, questa lotta tra poveri proprio per indebolire chi vive nei quartieri, per indebolire la forza che lì c'è. Quindi noi dobbiamo trasformare questa lotta tra poveri in un conflitto sociale, dobbiamo indicare chi sono i responsabili delle condizioni di esistenza sempre più precarie, evitare di cadere in questi tranelli. Proprio per questo siamo in questi quartieri, dobbiamo intensificare la nostra presenza, una presenza che a volte è mancata, e dove manca poi si creano poi questi fenomeni assolutamente deleteri. Dobbiamo cercare di non farci dividere, ma proprio di cercare questa unità, perché insieme, diciamo, quello che voglio mandare come messaggio finale di questo intervento è che insieme possiamo vincere, e che tutti insieme, unendo queste lotte, unendo le persone che nei quartieri si muovono, possiamo fare paura a chi comanda, cioè possiamo fare paura ad esempio ai vari Renzi, che sono il responsabile, diciamo, in prima persona per l'introduzione di politiche dichiaratamente neoliberiste nel nostro paese. Possiamo fare paura al ministro Lupi, che sicuramente è interessato, proprio il più principale responsabile proprio della difesa di questi gruppi di imprenditori corrotti e, diciamo, assetati di interessi che vanno contro gli interessi sociali. Quindi pensiamo al ministro Lupi come sia direttamente implicato sia nell'opera della TAV e sia nel decreto casa, quindi proprio un responsabile in prima persona della situazione di reale degrado che vivono le nostre vite, non il degrado di cui parlano loro. Ecco, queste persone cerchiamo anche oggi, ovviamente insieme a tante altre situazioni, di lanciare un messaggio forte che sono loro che devono cominciare a preoccuparsi. Ecco. Ok, benissimo. Questo è il mio intervento. Scusate un po', mi sono dilungato. No, vabbè, è stato lungo, però insomma, affrontate un po' tutti quanti gli aspetti anche che vanno, insomma, oltre specificatamente la giornata di oggi. Vabbè, ti ringraziamo, che così facciamo anche un collegamento con i compagni e le compagne della lotta No TAV, che insomma sono anche loro presenti a questo corteo. Intanto grazie mille, magari ci si risente più tardi. Ok, grazie. Ciao, buonasera.